Italia in controluce. Siamo a Bologna del 19 marzo 2002, quasi 10 anni fa. Un uomo e la sua bicicletta, l'immagine di quella fredda sera italiana. È solo Marco Biagi, consulente del Ministero del Welfare ed esperto di riforme del mercato del lavoro. Al mattino Radio 24 aveva già mandato in onda il suo editoriale sulla riforma del mercato del lavoro. Le ultime decisioni del governo confermano un'impostazione nuova della legislazione sul lavoro volta ad offrire opportunità di integrazione occupazionale. Sull'articolo 18 le novità sono significative. La reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento ingiustificato viene sospesa sperimentalmente per 4 anni per le imprese che fanno riemergere rapporti di lavoro clandestino, al fine di consentire ai lavoratori assunti oltre i 15 dipendenti di essere regolarizzati, nonché per favorire la trasformazione di rapporti a tempo determinato in impiego stabile, sebbene, questa è la novità, ai soli fini delle imprese che operano al sud. Tra 2 anni sapremo se le attese del governo corrispondono o meno alla realtà. Più che di diritti occorre discutere di opportunità di lavoro e di qualità dell'occupazione. Il resto è solo sterile polemica. Marco Biagi pedala dalla stazione a via Valdonica. Una stradina stretta intorno a vicoli, piazzette, antichi cammini, tra palazzi del 400 e negozi moderni. Si trova nel ghetto ebraico, su quella bicicletta porta una borsa di pelle nera, carica di documenti, ricerche, articoli pronti, relazioni, idee e progetti. Delle sue abitudini i brigatisti conoscono ormai tutto. Lo pedinano a Bologna fin sotto la sua abitazione, lo cercano a Roma, dove si reca per le consulenze al Ministero del Welfare. Non lo perdono di vista a Pianoro e Marina di Ravenna, dove passa l'estate, neppure a Modena, dove insegna diritto del lavoro all'università. Alle 18.30 Marco Biagi esce dal portone principale dell'Ateneo di Modena. Si reca allo scalo ferroviario e attende il treno interregionale per Bologna. Si trova proprio sotto la pensilina e da Modena, probabilmente. Un terrorista non ancora identificato avverte con il telefono cellulare Diana Blefari Melazzi, nome di battaglia Maria, staffetta del comando delle BR già operativo a Bologna. Ecco, sono le 19.41. Marco Biagi scende dalla carrozza e cammina lentamente lungo il binario 1 del piazzale ovest della stazione di Bologna. Si dirige verso l'uscita, poi volta a destra verso la saletta degli Eurostar. 19.41, stessa ora. Cinzia Banelli, nome di battaglia Sonia, attiva la SIM card acquistata giorni prima a Roma, poi chiama il 4242 dell'operatore Wind. L'impulso viene captato, registrato dalla cella telefonica BIS di via Mentana, Bologna, che copre gran parte del centro città, compresa l'abitazione di Marco Biagi. L'attivazione della scheda viene compiuta pochi minuti prima e a pochi metri dal luogo dell'omicidio, come per trasmettere un messaggio: siamo noi delle Brigate Rosse. Alle 19.53 il professor Marco Biagi esce dalla saletta Eurostar con il biglietto in tasca per Roma, quello del giorno dopo. Poi cammina a piedi ed esce dalla stazione. Attraversa la piazza, attende il verde del semaforo e taglia di traverso la strada. Poi entra nella galleria 2 Agosto, lì ritrova la sua bicicletta. Diana Blefari Melazzi, pure lei in bicicletta, si accerta che il professore sia partito e poi con la rice trasmittente scandisce agli altri componenti del comando il percorso abituale di Marco Biagi, il suo ultimo tragitto. Via Indipendenza, piazza 8 Agosto, via Massala, piazza San Martino, via Valdonica. Mario Galesi, nome di battaglia Paolo, Roberto Morandi, nelle BR conosciuto come Luca. Sono già sotto l'abitazione di Marco Biagi, indossano i caschi integrali. Quello di Galesi è color bianco, più scuro quello di Morandi. Attendono il professore sopra un motorino Peugeot Geo, color verde scuro. Cinzia Banelli è ferma sulla sua bicicletta in piazza San Martino. Nadia Desdemona Liuce, nome di battaglia Rosa, pure lei in bicicletta, si trova verso via Zamboni, tra via Valdonica e vicolo Luretta. Diana Blefari Melazzi è posizionata tra vicolo Luretta e via Massara. Sono le 20:10, è 19 marzo del 2002. Il freddo di marzo comincia a pungere davvero e la scena dell'omicidio è fulminea. Biagi si trova davanti al portone, posa la borsa di pelle nera, sta per infilare le chiavi nella toppa. Solo una voce acuta giunge alle sue spalle. «Professore, professore!» Biagi si volta di scatto, si lancia a terra, la bici finisce contro la colonna del portico. Una testimone racconterà così al processo di Bologna. Il signor Biagi era steso di fronte alla porta di casa sua e la persona che ho visto io sparare era inclinata verso di lui. Marco Biagi ha detto: per favore aiutatemi, sono state le ultime sue parole. Il primo proiettile della pistola semiautomatica di Mario Gallesi si conficca sul muro di via Valdonica a Bologna. Gli altri cinque trafiggono il corpo di Marco Biagi. Gallesi, Morandi fuggono col motorino verso piazza San Martino e via Massala. Radio 24 poco dopo entra in Breaking News e realizza il suo lungo speciale. Breaking news. È stato ucciso a Bologna l'economista Marco Biagi. Marco Biagi, lo avete sentito più volte anche ai nostri microfoni, consulente del Ministero del Welfare, è stato assassinato. La notizia è rimbalzata in via Teulada mentre era al termine della registrazione di Porta a Porta ed è stata confermata dalla portavoce del ministro Roberto Maroni. Proprio oggi Marco Biagi, in prima pagina del Sole 24 Ore, interveniva con un editoriale. Chi frena le riforme contro l'Europa, diceva Marco Biagi. È un economista, consulente del Ministero del Welfare, in stretto contatto con Roberto Maroni. Non sappiamo al momento che cosa sia realmente accaduto a Bologna, quali sono state le dinamiche di questo assassinio, che però porta indietro con il tempo e fa venire in mente ciò che è accaduto con un altro consulente del ministro allora del lavoro, sto parlando di Massimo D'Antona. Ma chi era Marco Biagi? Cristina Carpinelli ha intervistato Giovanni Bianconi, giornalista del Corriere della Sera e scrittore. Purtroppo il professor Biagi è diventato noto al grande pubblico solo dopo la sua morte. Era un po' come è successo con il professor D'Antona 3 anni prima e come era successo negli ultimissimi omicidi da parte delle Brigate Rosse, penso all'omicidio del senatore Ruffilli nel 1988, nel senso che era una di quelle persone che lavoravano vicino a personaggi importanti, a uomini di governo, ma sostanzialmente nell'ombra o comunque nell'ombra per il grande pubblico, mentre invece erano molto noti tra gli addetti ai lavori. E le Brigate Rosse sono andate a cercare questi personaggi qui nella loro ultima fase, cioè personaggi che contribuivano dalle retrovie alle politiche dei vari governi. D'Antona per un governo di centrosinistra, Biagi per un governo di centrodestra, nonostante il suo passato di adesivo, diciamo così, alle tesi socialiste, alla militanza del Partito Socialista anche. Quindi da questo punto di vista gli italiani hanno scoperto Biagi soltanto dopo e il suo ruolo soltanto dopo, tragicamente con quella morte, che aveva le sue ragioni proprio nel lavoro che Biagi stava facendo, cioè quello di composizione dei conflitti sociali, diciamo così. Le Brigate Rosse nel 1999 e poi nel 2002 non avevano nessuna velleità di conquistare il potere, diciamo, come eventualmente potevano avere all'inizio degli anni 70 in tutt'altro clima. Avevano però l'ambizione o comunque l'obiettivo di mettere dei granelli di sabbia negli ingranaggi, nel meccanismo della composizione dei conflitti sociali. E per fare questo hanno ucciso due persone, e una di queste è il professor Biagi, di cui tutti oggi conoscono. Tra l'altro l'ultimo articolo che lui scrisse il giorno stesso, uscito il giorno stesso del suo omicidio, sul Sole 24 Ore, parlava di temi che, di cui ci ritroviamo a parlare ancora oggi, insomma il lavoro, il mercato del lavoro, la necessità di adeguarsi all'Europa, e quindi questo significa che batteva sui tasti giusti e, diciamo così, aveva individuato quali erano i problemi da risolvere che ancora oggi non sono risolti. Domani a quest'ora prosegue il racconto di Radio 24 sull'omicidio di Marco Biagi a 10 anni dalla sua morte.